questi baci nella faccia delle ragazze così belle. Mamma, te sei una stella tra le stelle. Dovrei aprire il mio cuore a una ragazza, dirglielo che non ce la faccio senza lei e basta. Ma non ce la faccio, sono pazzo, sono paranoico e ludico, e questo è il mio mazzo. Cazzo, non ho palle abbastanza grosse. Abbastanza grosse per uccidere per lei e farla tornare, e farla tornare. Non voglio fare del male, mamma, non voglio fare del male.